English 24. Buonasera da Marta Cagnola. E da Giulia Crivelli. Questa sera parliamo di ragazzi, anzi di ragazzini. Stasera facciamo un po' le vecchie zie, perché dobbiamo parlare di questi ragazzini che, signora mia, quanto sono costosi. Allora, l'idea ci è venuta da un servizio che abbiamo preso dal nostro English 24 in edicola. Un servizio che ci racconta in particolare degli adolescenti inglesi, che costerebbero una bella cifra ogni anno ai loro genitori, almeno 9.000 sterline. Come mai? Beh, ce lo spiega questo servizio, intanto noi ne ascoltiamo un breve estratto. It's a description that many parents recognize, and it hints at the remarkable spending habits and tastes of teenagers living in the 21st century. Laptop, ostensibly for homework but mainly for Facebook, a TV in his room, a DVD player, two iPod touch phones, one purchased by himself, regular visits to a disco club for 16-year-olds, and the cinema. He has obviously got a mobile phone, his fourth having lost two and upgraded one, not to mention drum kit, saxophone lessons, all abandoned, bike bought by dad, currently unused. This mother's list is not unusual. According to research published today, the list of must-have items for teenagers has grown so much that their lifestyle now costs £9,000 a year. Allora, questa lista che abbiamo sentito è stata ripresa dal nostro CD di English 24, in particolare da questo servizio tratto da The Guardian. Che cosa succede e che cosa racconta questa madre? Sì, dice, qui usa un eufemismo e dice, beh, questo servizio hints at, to hint vuol dire segnalare, dare una traccia, dare un suggerimento, hint è anche il suggerimento come sostantivo, quindi questa lista ci suggerisce quali sono, e qui arriva l'eufemismo, le remarkable spending habits, quindi le abitudini di spesa remarkable, cioè notevoli, a dir poco, e i gusti naturalmente dei nostri teenager. C'è un po' l'elenco di quello che serve, assolutamente. Sì, e poi naturalmente c'è sempre il modo di vendere questa necessità di questo oggetto ai genitori, quindi per esempio il laptop è ostensibly for homework, quindi viene ostentato come oggetto che serve per fare i compiti, homework, il lavoro che si fa a casa, cioè quelli che noi chiamiamo i compiti a casa, però in realtà it's mainly for Facebook, cioè in realtà poi viene usato soprattutto per, come sappiamo, per andare su Facebook. E TV in his room, cioè come se appunto non basta quella di casa nel salotto, ce ne vuole una nella stanza. E poi ci sono le regular visits to a disco club for 16-year-olds. Ecco, questa è una cosa che in Italia non abbiamo. In Inghilterra e anche in altri paesi ci sono questi disco clubs, cioè queste discoteche che sono fatti proprio per teenager. Quindi queste regular visits, queste visite regolari alle discoteche, naturalmente le pagano i genitori, altra spesa. Una cosa che non c'era ma adesso c'è, e guai se non ci fosse, il telefonino. Sì, in questo caso addirittura his fourth, cioè questo ragazzino ne ha avuti quattro, questo è il quarto, perché having lost two, poiché ne ha persi due, e upgraded one, e poi il terzo non gli piaceva, ha voluto comprarsene il quarto per upgrade quello che aveva, sicuramente qualche funzione in più, memoria in più, ci stanno più canzoni, chissà quale altro diavoleria tecnologica. Poi ha fatto delle lezioni di saxophone, di sax, le ha abbandonate, e così lo stesso la bicicletta che gli è stata comprata da papà non è che gli sia piaciuta molto. Currently unused, questa bike bought by dad, to buy boat, verbo irregolare, è appunto da qualche parte, forse non è molto cool, non è quindi molto, molto alla moda andare in giro in bicicletta a 16 anni, credo che tutti vorrebbero in realtà la moto o il motorino, quindi povero dad, ma regalo non gradito. E questo per i teenagers normali, poi ci sono quelli molto fortunati, molto ricchi e soprattutto quelli dipinti dalla televisione, ci sono in particolare due serie televisive, la prima è ambientata a Manhattan, anzi tra l'elite di Manhattan, e si chiama Gossip Girl. Questo è il promo. The Upper East Siders, Gossip Girl here. Are you ready for the 411 on what's up and who went down? I love it when you talk dirty. Her loving him, rejecting her, pining for him, seducing her, sabotaging him? The rumors are true. The show that exposes the lives of Manhattan's Upper East Side and the outsiders who won in. Returns. Gossip girl. This is a huge thing. This fall. You didn't know me before I went away. I never thought anybody was gonna get hurt. I lied and I stole and I lost the respect of my family. For what? All I need is a yes or a no. Did you sleep with someone else? Yes. Gossip Girl, returning this fall to the CW. Allora, io non sono una teenager, ma quanto mi piace questa serie televisiva, mi diverto davvero molto e devo dire, mi piacciono molto questi promo americani, è veramente lo stile del promo con queste voci tutte un po' a flash, a spot e una voce narrante che anticipa i contenuti della stagione. Cosa viene fuori da questo Gossip Girl? Tra l'altro ci stuzzica subito, no? Perché in fondo tutti vogliamo sapere cosa è di moda, cosa non lo è, chi è famoso, chi non lo è. E allora ci annuncia questo promo, siete pronti per il 411 on who's up and who went down. 411 è l'equivalente un po' del nostro 12 o di tutti questi nuovi numeri telefonici per chiedere le informazioni degli elenchi, quindi è un po' come dire, insomma, volete la lista completa, quella ufficiale di who's up, cioè chi appunto sale, nel senso che diventa più famoso, più cool, più di moda, è who went down, e chi invece è diventato un po' sfigatello. E poi ci sono le frasi che si dicono i ragazzi, insomma, appunto sono delle scene molto veloci che noi vediamo nel promo televisivo. Sì, perché poi alla fine, insomma, quell'età era bellissimo, me lo ricordo, beh, bellissimo e bruttissimo, alla fine sono poi tante le questioni di cuore, quindi naturalmente c'è una lei, her, loving him, una lei che ama lui, but him, rejecting her, però lui la rifiuta, e poi però c'è qualcun altro che è sabotaging him, che gli fa lo sgambetto perché magari si contendono la stessa ragazza, insomma, sono cose che possiamo immaginare, abbiamo vissuto tutti. Spesso sono rumors, l'abbiamo già detto, non significa esattamente rumori quanto insomma gossip, pettegolezzo, gossip. A volte anche finanziario rumors. Esatto, le voci, ecco, proprio letteralmente le voci, quindi appunto anche quando si dice, lo potete leggere a volte anche sul Sole 24 Ore, il rumor che la tale società farà questo, farà quest'altro. Qui poi c'è la famosa Upper East Side, allora sapete che New York, Manhattan meglio, è divisa in due da Fifth Avenue, tutto quello che è a East di Fifth Avenue è appunto la East Side e quello che è a West, quindi a Ovest di Fifth Avenue è la West Side, quindi l'Upper East Side è sopra la 70ª strada, al di là della quinta, ed è tutto quel quartiere molto vicino a Central Park dove credo che il reddito pro capite sia altissimo. This fall, che poi era in America lo scorso autunno, diciamo che anticipa dei contenuti clamorosi per questa serie. Tra l'altro notiamo appunto perché un inglese lo capirebbe, però in inglese un inglese direbbe sempre autumn, perché autumn è l'autunno, invece gli americani usano più volentieri fall. Comunque ci aspettiamoci perché this is a huge thing, cioè questa è una cosa fantastica, grandissima, huge vuol dire grandissimo. Ci ricordiamo qualche anno fa il grande successo di Beverly Hills 90210, anche in Italia era veramente huge, era un grandissimo successo. In America questa serie televisiva è tornata, sentiamo il promo che presenta proprio questo 90210. America's favorite zip code is back, the new 90210, cooler, sexier, more provocative, where every story is intriguing, every character has a secret, and nothing is what you expect. I play Annie Mills on the new 90210. Annie's got a great family life. She's a very good student. Her dad is the new principal of West Beverly High. The whole family's had to transfer over from Kansas City. She's the little fish in the big pond of what seems to be sharks. This fall, you want to live in the zip. You gotta live by the code. 90210. Allora, ancora this fall, perché questi erano i promo dell'inizio della stagione televisiva. Io l'ho detto questo numero 90210, noi sapevamo benissimo a cosa corrispondeva questo 90210. Adesso i ragazzi italiani impareranno ancora cosa significa, cos'è. È proprio il codice postale di Beverly Hills, e tant'è che appunto nel promo si dice It's America's favorite zip code. Zip code è quello che noi chiamiamo il codice postale. Anche in America sono fatti di 5 cifre, poi in realtà nelle grandi città le 5 cifre se ne aggiungono altre 4, perché appunto sono poi dettagliano ulteriormente la posizione. Però se una città è ragionevolmente piccola, come in Italia, ha 5 cifre, quindi 90120, 90210. Is back, è tornato. Is back, che letteralmente è, naturalmente è indietro, però noi in italiano diciamo è tornato. Every story, naturalmente è più sexier, è sexier, quindi è più sexy, è cooler, è più alla moda, it's more intriguing, quindi è ancora più intrigante, insomma. È qualcosa che noi non ci possiamo aspettare. Sì, every character has a secret, ogni personaggio, character, false friend, non vuol dire carattere ma personaggio, ha un segreto, e va bene anche questo più o meno, succedeva anche nell'altra serie, and nothing is what you expect, e niente è come te lo aspetti. Ma qui insomma questo è proprio un po', cioè sono sicura che è così, ma è la specialità delle serie americane, insomma, continui colpi di scena. La protagonista è questa ragazza che noi abbiamo visto nel promo, della quale ora abbiamo sentito la voce. Cosa trova a Beverly Hills? Gli squali, ovviamente, non quelli dell'oceano. No, è un po' il pond, no? Lei trova what seems to be the sharks. E naturalmente Beverly Hills è, sappiamo, può essere, lo vediamo anche da altre serie televisive, un posto molto crudele, forse per l'influenza di Hollywood, chi lo sa. Insomma, questa ragazza di Kansas City si troverà un po' come in uno stagno e circondata da questi sharks. Questi squali. Lo confesso, ho già visto quasi tutta la prima stagione, non sono riuscita a resistere. C'è alla fine del promo un doppio senso, un calambur, insomma, la frase effetto che chiude il trailer. Quindi, you don't live by the zip, but you gotta live by the code. Quindi, dovete, this fall, questo autunno, dovete, la regola di vita è vivere secondo questo codice, che naturalmente non è un codice morale o men che meno di qualsiasi altro genere, ma è un zip code, cioè dovete vivere secondo il codice postale. Scopriremo se questo Beverly Hills nuovo piacerà anche in Italia, non lo sappiamo ancora. Il nostro tempo radiofonico anche per questo sabato sera si conclude qui. Io ringrazio Valeria Bernardi in regia, da Marta Cagnola, Giulia Crivelli. L'augurio di una buona serata.